La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, Franco D'Assisti in studio, la nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Tutte le novità, o quasi tutte le novità in sala, e anche gli spunti più interessanti per il cinema da consumare, vedere o rivedere a casa. Ci sono 6 film nuovi che arrivano nelle sale cinematografiche italiane. C'è un colossal molto atteso, ma forse un po' deludente, come Eat, Pray, Love, Mangia, Prega, Ama, con Julia Roberts. C'è qualcosa ancora che arriva dalla Mostra del Cinema di Venezia, c'è una prova d'attore davvero sensazionale di Edward Norton che fa due fratelli gemelli in Fratelli in Erba, insomma c'è tutto quello che ci interessa per un buon weekend al cinema, ma c'è anche molto tra cinema e moda, perché stiamo quasi entrando nella settimana della moda di Milano, e allora, come vedrete, anche il palinsesto della Rosa Purpurea ospiterà approfondimenti proprio sulla relazione fra questi due mondi molto spesso limitrofi. Questo per entrare nel clima della nostra puntata, ma facciamolo meglio con i nostri titoli di testa. Un'Italia da cartolina per un film in tono minore. Fra stereotipi e sdolcinatezze arriva in Italia Mangia, Prega, Ama, il film che segna il ritorno di Julia Roberts. Vampiri che apparecchiano la tavola per mangiarsi il cinese, licantropi che ballano come i Village People, arriva in Italia il parodistico Mortimi, per tutti quelli che non hanno amato Twilight. Edward Norton contro Edward Norton. L'attore interpreta i ruoli di due gemelli diversi in Fratelli in Erba. Uno professore di successo, l'altro coltivatore diretto di marijuana. Cinema e moda, un rapporto secolare. Ne parliamo con Enrico Nosei della Cineteca Italiana di Milano, che in occasione della Settimana della Moda dedica una rassegna ai film per Fashion Victim. Tu avrai una lunga vita, avrai molti amici, farai molte esperienze, perderai tutti i tuoi soldi. Sta tranquilla, riuscirai a riaverli tutti quanti. E un giorno tornerai a Bali e allora io ti insegnerò tutto quello che so. Ed è inutile dire che le cose andranno proprio così in Mangia, Prega, Ama, il film più atteso del weekend, quello con cui apriamo la Rosa Purpurea. Liz Gilbert, quarantenne giornalista di viaggi e sedicente scrittrice, insoddisfatta del proprio matrimonio e alla ricerca di una ragione profonda per la sua vita, mollerà il marito molliccio, si invaghirà di un attore giovane e piacente con cui però non c'è chimica. Mamma, quando è che hai accettato la vita che fai? Oh, amore mio, sempre alla ricerca di qualcosa. La gente tende a somigliare al proprio cane. Tu una volta somigliavi a Steven. E adesso sei identica a David. Io ho bisogno di cose nuove. Da quando avevo 15 anni non ho fatto altro che trovare o piantare un fidanzato. Non mi sono mai presa 2 settimane di respiro per occuparmi di me stessa. Vuoi andare via per un anno? Ho sempre avuto una grande voglia di vivere e non ce l'ho più. Voglio andare in un posto dove meravigliarmi di qualcosa. Ed eccoli allora i luoghi della meraviglia, quelli che si era ripromessa di vedere nella sua esistenza, Liz, ma che fin lì erano rimasti ritagli di giornale in una scatola, che è un altro modo per dire sogni nel cassetto, e via con l'animo ricolmo di paure e di speranze. Vado in Italia, poi vado in India e poi finirò l'anno a Bali. Una storia d'amore con la pizza, diciamo che è una specie di pane, amore e carboidrati. Se riesci a fare un po' di spazio nella tua mente, si apre una porta. E allora sai che cosa fa l'universo? Ti inonda. Roma con il dolce far niente degli italiani, la pizza, il gelato e gli spaghetti, Calcutta con le comuni dove coltivare l'arte della meditazione e il ritorno a Bali come da predizione del vecchio sciamano, dove capire se finalmente si è in armonia col mondo e incontrare forse l'amore. Melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor. È migliore essere allegri che essere tristi. E beh sì, non possiamo non essere d'accordo. Canta questa O Samba do Benkao, inserito nella colonna sonora di questo film Mangia, prega, ama, tratto dal bestseller omonimo di Elizabeth Gilbert, che si chiama come il personaggio di Julia Roberts, e quindi dobbiamo prenderlo come autobiografico. E allora vorremmo chiedere alla signora o signorina Gilbert quando e dove l'ha vista quell'Italia da cartolina del dopoguerra, però quelle case del centro di Roma da 10.000 euro al metro quadro dove non c'è l'acqua calda e dove vecchiette col fulare in testa vanno a prendere l'acqua coi secchi alle fontane. Nemmeno nei paesini dell'Abruzzo interno dell'American George Clooney si vedono scene simili. O come la bolgia di colletti bianchi che preme alle spalle della Roberts per prendere il proprio caffè al bancone del bar. O ancora come tutti gli amici italiani, su tutti Luca Argentero, che dopo mangiato si puliscono i denti con la lingua, quando non con le mani. E poi gara di gestacci, perché gli italiani, si sa, parlano col corpo. Ma per favore. Ma perché? Perché gli americani continuano a rappresentarci così, fermi a 50 anni fa? Ecco, la parte italiana di questo film è davvero la più inutile e indisponente, sempre sottesa all'arte del dolce far niente italico, che invece spesso gli italiani si fanno un mazzo tanto dalla mattina alla sera in un paese largamente imperfetto, ma non da rimbambiti come quello dipinto dai film d'oltreoceano. Poi si passa in India e lì almeno c'è Richard Jenkins, che è un grande attore in un film sbagliato, che non lo supporta e che fa apparire il suo monologo sulle ragioni del fallimento della sua vita come una perla buttata in pasto ai porci. E poi Bali, lo sciamano vecchio e simpatico, e la Lady di New York che finalmente si ritrova ma ha paura di amare un Javier Bardem che gigioneggia oltre il necessario. Il problema in Mangia, prega, ama è che manca una ragione profonda, una necessità e anche una vera regia, visto che Ryan Murphy si rivela più a suo agio col formato breve dell'intrattenimento da serial TV di successo, sue molte cose di Glee o di Nip and Tuck, fatto di botte e risposte ben incasellate in una griglia, che con i tempi lunghi del cinema, che ha sempre bisogno di un'anima per decollare. Ma andiamo a sentirla, la protagonista Julia Roberts, a sottolineare la rarità di ruoli da protagonista assoluta per attrici della sua generazione. Sapete, non avevo una parte principale in un film da molto tempo e mi chiedevo se quel tipo di carico di lavoro fosse ancora interessante per me e se io sarei stata felice alla fine di questo lavoro, così da sentirmi incredibilmente soddisfatta come artista. Niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Ed è la voce di Luciano Ligabue a introdurci nella seconda parte della Rosa Purpurea con il suo Niente paura, che è anche il titolo di un film che arriva nelle sale cinematografiche italiane, firmato da Pier Giorgio Gai, autore fra i più apprezzati del cinema italiano, anche se non particolarmente prolifico, ma meglio farli bene e farne uno ogni tanto, insomma, i film. Ricordiamoci però lavori come Tre Storie, come La Forza del Passato e adesso uno strano documentario. È con noi Pier Giorgio Gai. Ciao e grazie di essere qui alla Rosa Purpurea. Grazie a voi. Pier Giorgio, dicevo, uno strano documentario, perché tu hai scelto come cantore dell'Italia di oggi un cantante, un cantautore, che è appunto Luciano Ligabue, e hai messo nel telaio delle sue canzoni il racconto, da parte anche di tanti testimonial, del punto dove siamo. Ecco, questo film può essere un po' considerato come quelle mappe che si trovano nei grandi spazi dove c'è un puntino rosso con scritto "noi siamo qui, voi siete qui". Dove siamo noi? Dov'è l'Italia cantata in Niente paura? Quello è quello che cerchiamo di fare, di fare un po' il punto della situazione attraverso, in una maniera poco canonica, cioè partendo dalla musica popolare, proprio perché è una cosa che suscita le nostre emozioni e poi rispetto alle canzoni riusciamo sempre a collegare brani o dei momenti della nostra vita, per cui poi il gioco fra microstoria e macrostoria diventa molto facile. Ecco, tu hai voluto punteggiare, come dicevo, il tuo film con testimonianze che vanno dal mondo dello sport a quello della cultura, delle scienze, eccetera. Io ho isolato un paio di clip, voglio far sentire subito, per poi chiederti qualcosa, quello che dice Fabio Volo, per esempio, sull'Italia di oggi. Sentiamo. Se tu a una persona gli rubi il futuro, non c'è più coscienza del presente, nel senso verso l'altro, perché tu sei totalmente concentrato sulla tua salvaguardia, no? Sulla tua sopravvivenza. Non tutte le persone possono avere un futuro meraviglioso, perché è sempre stata così, è anche giusto, io poi sono anche un po' darwinista in questo. Però tutte le persone devono pensare di poterlo avere, altrimenti uno non si sveglia la mattina. Pier Giorgio, chi sono i ladri di futuro cui allude Fabio Volo nel film? Il ladro di futuro è la società che viviamo, un po' a volte siamo noi stessi i ladri di futuro. Infatti in Niente paura un verso dice: a parte che sogni passano se uno li fa passare, e questo film vorrebbe, invita molto un po' alla partecipazione di ognuno di noi per non farci rubare questi sogni, e ricorda anche, sempre parlando di canzoni, un'altra di Gaber di qualche anno fa che diceva: la libertà è partecipazione, per cui è un po' l'invito che vorremmo rivolgere a tutti noi. Cosa hanno, Pier Giorgio, le canzoni di Ligabue? Perché hai scelto proprio quelle canzoni, quell'autore, per raccontare appunto l'Italia di oggi? L'ho scelto innanzitutto come musicista popolare, per cui c'è un vasto pubblico appunto che riesce a trovare parte della propria storia nelle sue canzoni, e poi perché è un musicista che, anche se non dichiaratamente impegnato, però ha sempre una grossa attenzione verso il paese in cui vive. Lo dimostra il fatto che nei suoi concerti molto spesso proietta gli articoli della Costituzione durante la canzone Non è tempo per noi, lo dimostra il fatto che li chiude con questa canzone che è Buonanotte all'Italia, mentre sul maxi schermo scorrono i visi di personaggi che hanno dato molto a questo paese. Pier Giorgio, nel ringraziarti per averci fatto entrare un po' nel clima del tuo film, io voglio chiudere il nostro collegamento salutandoti e facendo ascoltare al nostro pubblico quello che dice Paolo Rossi. Mi sembra la chiusura forse più amara, ma anche più ficcante, più efficace fra quelle tratte dal tuo film. Sentiamo. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi c'è stato via via, soprattutto con l'avvento della televisione in Italia, la trasformazione del popolo in pubblico. Il pubblico è un tifoso, non è molto preparato come tutti i tifosi, soprattutto sui problemi che poi lo riguardano. Vota da casa, applaude, si indigna e poi va a dormire. E allora abbiamo salutato Pier Giorgio Gai, Niente paura, 150 sale in Italia per questo film molto singolare, originale, che ci racconta il nostro paese così come oggi attraverso le canzoni di uno dei suoi massimi cantori. Adesso invece il DVD Game, prima traccia del DVD Game, anzi oggi è improprio dire prima traccia perché vi abbiamo preparato, vista l'eccezionalità del premio, diciamo così, una DVD Game molto particolare. Intanto parliamo di Blu-ray e parliamo di un film che è un vero e proprio capolavoro. Chissà se qualcuno comincia già a riconoscerlo da questa clip. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace it came from outer space. E allora si è sintonizzato qualcuno? Avete capito di che film si tratta? Beh, questa volta il gioco non consiste nell'indovinare il film, ma nel sapere un paio di particolari che siamo andati a scavare, parlando anche con i grandissimi appassionati di questo film, che è il Rocky Horror Picture Show. Perché lo facciamo? Perché in occasione del 35esimo anniversario di questo musical così strampalato, così particolare, ma così che rimane così attaccato alla pelle di chi lo vede, tanto che, come sapete, a Milano c'è un cinema, il Cinema Mexico, che ancora oggi periodicamente mette in scena il Rocky Horror Picture Show, ovvero attori dal vivo sul palco davanti alla proiezione del film. Ebbene, in palio c'è il Blu-ray del Rocky Horror Picture Show e dovete dirci, per indovinarlo, alla Rosa Purpure a @radio24.it, dovete rispondere esattamente a due domande che riguardano proprio la cultura necessaria per questo film. Uno, cosa c'è scritto sul tatuaggio che il dottor Frankenfurter, il protagonista, porta nella parte superiore del suo braccio destro? Due, quale celebre rockstar voleva interpretare il ruolo del dottor Frankenfurter? Noi vi ribadiremo queste domande ascoltando altre clip del film nel corso della trasmissione. Vi ricordo, se avete indovinato o se volete partecipare, di scrivere alla Rosa Purpure a @radio24.it. E allora a questo punto noi andiamo avanti con un altro film che arriva nelle sale italiane, visto e considerato l'andamento delle classifiche degli incassi, che dietro Shrek, primo in classifica, vede Resident Evil 2, un'assoluta sorpresa, primo in America, secondo in Italia, con un incasso superiore, per dirvi, alla solitudine dei numeri primi, che non ha sfondato il muro del milione di euro. Perché dico questo? Per dirvi che l'horror giovanile, l'horror che arriva, diciamo così, anche magari da un game, eccetera, è una delle fattispecie cinematografiche che vanno meglio e che si impongono quasi con certezza ormai nelle sale cinematografiche. Ma ce n'è un'altra di fattispecie, quella della parodia. Ed è arrivato il momento che aspettavamo da prima dell'estate, perché il trailer era abbastanza esilarante, di vedere nelle sale Mordimi, che non è nient'altro che la parodia in stile American Pie o in stile Scary Movie, soprattutto, di un film come, anzi di una saga come Twilight. Insomma, per tutti quelli che non hanno amato Twilight e vogliono anche prenderlo in giro, oppure che l'hanno amato e vogliono prendersi in giro, c'è questo Mordimi, di cui andiamo ad ascoltare una clip. Qualcuno ha ordinato cinese? Chi sceglierai? Me o lui? Non capisci? Io sono un killer! Ho trovato una più sciroccata di me. Lady Gaga? È troppo, dici? Tu sai chi siamo, vero? Siete i Black Eyed Peas! Perché tutti ci scambiano sempre per i Black Eyed Peas? Jacob, scappa! Un chihuahua? Edward, dove? Edward, ti amiamo, sei il massimo! No, è Jacob, il più piccolo! E finisce a palate in faccia. Stiamo parlando appunto di Mordimi ed è in collegamento con noi Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Buonasera Franco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Boris Sollazzo, collegato non dallo spazio come potrebbe sembrare, ma da San Sebastian in Spagna, dove è in corso il festival, il celebre festival di San Sebastian, che segue quello di Venezia e quello di Toronto, appuntamento fisso della seconda metà di settembre, festivaliera. Lì tra l'altro si mangia un ottimo jamon, un ottimo prosciutto e un vino rosso, che è una specialità. Spero tu non sia già, come dire, in avanzato stato di consumo in questo senso. Boris, Mordimi, allora, parodia, ovviamente c'è da prenderla in maniera, come dire, così, insomma, così come viene, però tutto sommato ci si diverte abbastanza. Ma guarda, in verità ci si diverte molto guardando il trailer, nel senso che le battute migliori sono tutte nel trailer, da quella sui Black Eyed Peas al povero Pony Express del cinese che fa una brutta fine. Per il resto sta tutto nella coppia di questi due registi, che hanno già fatto Hot Movie, Disaster Movie, Epic Movie e il grande celebrato 300, di cui noi siamo fan sfegatati. E lascia il tempo che trova. Qui si prende in giro appunto Twilight, si prende in giro Buffy, si prende in giro Alice in Wonderland, cioè tutto un genere nato, anzi rinato, negli ultimi 5 anni. E lo si fa più o meno bene, con una certa volgarità che in Europa forse si capisce meno. Il problema rispetto al passato, secondo me, rispetto alle grandi parodie di Mel Brooks, è solo uno: gli originali fanno già molto ridere, quindi è anche difficile far ridere ulteriormente, andare oltre l'umorismo involontario di Twilight and Company. Beh, la cosa che io trovo positiva però in questo senso, come ho detto precedentemente, insomma, sono film che vanno presi così come vengono, ma è il fatto di dissacrare un po' questa magia che sembra essersi creata attorno a Twilight, soprattutto da parte di tantissimi fans che, insomma, cominciano un po', come dire, se vogliamo, a mischiare il vero con il falso, no? E anche questa sorta di mitologia che si è creata attorno a Robert Pattinson, alle protagoniste femminili, insomma, ormai sono diventati appunto delle star senza esserlo, poi sostanzialmente, dovendo ancora dimostrare tutto. Ecco, il fatto che si dissacri un po' e si metta tutto un po' in burletta, tutto sommato, forse ricolloca anche quella saga nel suo alveo naturale, che è quello, insomma, di un film o di una serie di film per adolescenti, che forse ha anche già dato quello che doveva dare. Un altro film che attende di essere raccontato e recensito è Fratelli in Erba. Fratelli in Erba dove l'erba è quella che immaginate, ovvero quella che induce sogni particolarmente brillanti o anche sonni particolarmente sereni. Ma insomma, è una sfida perché è un film che vede negli panni di due gemelli molto diversi, potremmo dire. Edward Norton, che da una parte è quello posato per bene, intelligente, integro, e l'altro è quello fumato, sciroccato, che addirittura si coltiva la marijuana, diciamo così, da coltivatore diretto. E allora andiamo ad ascoltare una clip di questo film. Due fratelli. Certo che sei tutto uguale a lui. Credo che gemelli significhi proprio questo. Bill vive per la cultura. Oh no, no, no, no, no! Si fermi, signorina Greenstein! No! Signorina Greenstein! Brady per l'agricoltura. Pensavi che spacciavamo bustine da due soldi? Vuoi provarla? No, io mi guadagno da vivere col cervello, quindi vorrei mantenerlo lucido. Insieme stanno per vivere un'avventura stupefacente. Solo un piccolo assaggino. E allora, un'avventura stupefacente. Raccontiamo un po'... Boris, si è capito un po' dal trailer il clima del film. Un fratello che a un certo punto riceve la notizia che suo gemello Brady, il coltivatore d'erba, è morto, lascia l'università e ritorna in Oklahoma e scopre come sono in realtà le cose. Prova d'attore, diciamo così, Edward Norton la interpreta in maniera interessante proprio perché si sdoppia. Queste prove però sono sempre un po' insidiose perché da una parte c'è anche il rischio di voler far bella figura, non so come dire, di volersi mettere un po' in scena troppo. Come è andata in questo caso? Secondo me bene, nel senso che il regista non è un granché e la storia, come hai detto tu, insomma, si poggia proprio su qualcosa di estremamente esile. E Edward Norton dimostra due cose che sappiamo della sua carriera. La prima è che è un attore straordinario, molto versatile, anche con una vena ironica e drammatica molto pronunciata. La seconda è che deve avere l'agente più scarso di tutto Hollywood perché continua a sbagliare film. Detto questo, Fratelli in Erba, in un weekend come questo, che non presenta proprio uscite straordinarie, rappresenta un'opera, secondo me, molto gradevole. Boris, grazie per essere stato con noi, buon Festival di San Sebastian, magari poi nella prossima settimana ci racconterai come è andato anche quel festival. Appuntamento qui alla Rosa Purpurea. Hola a tutti. E con la ola e con il saluto spagnolo di Boris Sollazzo noi andiamo avanti perché siamo arrivati al secondo appuntamento, alla seconda finestra con il Blu-ray game di oggi. Andiamo ad ascoltare un'altra canzone dal Rocky Horror Picture Show. E questo era Touch Me, Touch Me, sempre da Rocky Horror Picture Show. Vi ricordo le due domande che aleggiano in questa puntata della Rosa Purpurea per esperti del Rocky Horror. Cosa c'è scritto sul tatuaggio che il dottor Frankenfurter porta nella parte superiore del suo braccio destro? E quale celebre rockstar voleva interpretare, e aveva chiesto proprio fisicamente di interpretare, il dottor Frankenfurter? Poi non è andata così, non l'ha interpretata. Se conoscete la risposta a queste due domande, per provare a vincere il Blu-ray nei 35 anni di vita di questo Rocky Horror Picture Show, vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica larosapurpurea@radio24.it. E adesso passiamo a parlare di moda, non perché la trasmissione abbia cambiato diciamo così settore, ma perché la moda sta per invadere Milano con la sua settimana autunnale che riempie la città, riempirà i giornali, riempirà, ve ne accorgerete, le televisioni, eccetera. E allora, approfittando di questo tema, noi abbiamo voluto dedicare la nostra rubrica Trailer USA fra poco con Michaela Bellisario a un film che proprio entra e parla nel mondo della moda ed è stato presentato da poco negli Stati Uniti. Ma prima di tutto ha una breve rassegna, ma con titoli veramente di grande presa, titoli che varrebbe la pena vedere o rivedere, che la Cineteca Italiana, lo Spazio Oberdan in via Vittorio Veneto a Milano, ha organizzato, che si chiama proprio Cinema di Moda. Siamo in collegamento con Enrico Nosei, che è un po' il deus ex machina, se vogliamo, della Cineteca di Milano e che ha un po' organizzato, scelto questi titoli. Ciao Enrico. Ciao Franco. Ciao, allora, se non sbaglio sono 5 film, io li voglio citare perché sono A Single Man di Tom Ford, e qui è addirittura stilista e regista, e poi c'è proprio un allure di grande eleganza in tutto il film, e questo poi adesso ti chiederò, è un po' anche un trade union su come appunto uno stilista può interpretare l'arte di cucire film anziché di cucire vestiti o di inventare e disegnare vestiti. Poi Celebrity di Woody Allen, Prêt-à-porter di Robert Altman, un altro grandissimo film. Questo film, che è un'anteprima assoluta e che io invito il nostro pubblico ad andare a vedere, che passerà giovedì 23 settembre, ne abbiamo parlato tra l'altro anche qui alla Rosa Purpurea qualche settimana fa, nel nostro, appunto, nel nostro spazio Trailer USA, quando era stato presentato in America, ed è The September Issue, che è un film che ancora una volta mette in scena la amata odiata direttrice di Vogue, Anne Wintour, su cui si basa il personaggio di Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada, per intenderci, e poi Valentino della Stemperor, un altro documentario che proprio dava un po' la dimensione della grandezza mondiale, diciamo così, del nostro Valentino. Insomma, 5 film per raccontare la moda, ma per raccontare, come diceva Enrico, che c'è una strettissima relazione fra queste due arti. È chiaro che ci vuole, prima di tutto, quando si parla di grandi registi, di un gusto di messa in scena, una scelta del punto di vista, un utilizzo dei colori, un utilizzo naturalmente anche una scelta dei costumi, che sono qualcosa che ha più direttamente a che fare. Stiamo parlando degli stessi talenti, in qualche misura, che deve avere anche un grande regista. È chiaro che forse dove invece rimane una separazione, una differenza, è sui temi affrontati. Noi sappiamo che il cinema è stato anche di storie, di racconto, di capacità narrativa, di capacità di interpretare la realtà attraverso le storie più o meno false o più o meno autentiche che si raccontano. Nel mondo della moda questo forse è meno evidente, però è anche vero che probabilmente i grandi stilisti sono quelli che riescono a intercettare, a interpretare o addirittura ad anticipare un'area del tempo, una tendenza, una direzione verso cui si spostano anche così i gusti delle persone, che può avere a che fare, può rimandare alla stessa capacità di interpretazione, di anticipazione, di riflessione, di approfondimento che hanno alcuni grandi registi. Io non credo che Woody Allen o Altman, per citare due autori del cinema, due autori veri, insomma due registi che possono essere annoverati appunto nel cinema d'autore, si siano confrontati col mondo della moda solo per metterlo alla berlina, come un po' fanno peraltro in questi due film. Ma secondo me anche perché poi, altro elemento da non sottovalutare, c'è una complessità all'interno di questo mondo, un'anche contraddittorietà, che però rende proprio possibile la messa in scena anche di personaggi a più facce. Grazie allora Enrico Nosè della Cineteca Italiana, ricordo Spazio Obert in via Vittorio Veneto a Milano dal 18 al 26 settembre, cinema di moda per guardare i film con un occhio, diciamo, estetico diverso dal solito. Grazie. E allora, Enrico Nosè ci ha raccontato quello che si vedrà alla Cineteca a Milano in riguardo ai film e alla relazione fra cinema e moda, ma come dicevamo anche la nostra Micaela Bellisario ci ha voluto scovare nella programmazione nuova americana un film che proprio racconta questo. Si intitola Picture Me, letteralmente fammi una fotografami, insomma. Si tratta di un documentario, un ennesimo documentario, un dietro le quinte girato da un ex modella, Sarah Ziff, tra l'altro Micaela Bellisario, e non lo dico mai, ma per chi non lo sapesse, è una grande esperta di moda, visto che ha anche guidato, anche scritto, pubblicato un libro che è diventato un vero cult, Guida turistica per fashion victim, che descrive tutti i retroscena della moda a Milano, Roma e Firenze. Allora, chi può parlarcene meglio di lei? Micaela. Ciao Franco, eccomi qua e grazie per la citazione. Dunque, Picture Me è proprio un documentario adatto a chi ama la moda, fashion victim in primis. È un film che fa scoprire il fashion system dietro le quinte, ma che soprattutto descrive tutta la preparazione prima della sfilata, che ovviamente il pubblico non vede. E, il documentario è stato girato da una ex modella, Sarah Ziff, un volto noto di Calvin Klein, Stella McCartney e Gap, che prende spunto proprio dalla sua stessa storia. E protagoniste sono proprio le modelle, le vere star degli show, che purtroppo però in passerella, come noto, non hanno voce, sono solo delle indossatrici mute praticamente. Certo, il vantaggio della loro carriera sono le copertine sulle riviste, il successo, l'ammirazione e soprattutto gli assegni con cifre che per normali non guadagnano neppure in tutta una vita. In questo passo del trailer si sente una modella guardare entusiasta un assegno da 80.000 euro appena ricevuto e si sente anche un padre dire che sì, lui è contento per la carriera della figlia o quantomeno per i lati positivi che presenta. In this world that's based in fantasy, nothing comes that quickly and easily without a catch. How much? It's more than I thought it would be. How did it feel when I started to get out earned by my daughter? It felt great. Come dicevo, sotto il vestito niente, tanto per citare un famoso film sulla moda degli anni Ottanta. Le modelle per gli stilisti sono solo stampelle viventi alla mercé di tutti, i designer, i parrucchieri, i truccatori, i fotografi. Nel film Sarah Ziff riprende una modella che in effetti dice una frase amara per certi versi: più che donne bellissime, dice, siamo marionette. La vita nel backstage a volte è così pesante che, come si sente in questo passo del trailer, una modella piange davanti all'ennesimo scatto di un fotografo, non ne può più. It's almost like this carrot is being dangled in front of your face the whole time. You have to keep going and keep going and keep going and you get carried away with it. I'd wonder, well, how different is what I'm doing from what a stripper does? A stupid photographer guy backstage was like taking pictures, and I'm like, don't take pictures of me, like I'm like naked, dude. Sono un altro documentario, Picture Me, che ci porta dietro il mondo patinato della moda, presentato il 17 settembre a New York durante la Fashion Week. Il 24 sarà presentato a Los Angeles, probabilmente in Italia lo vedremo solo in DVD, difficile che esca sul grande schermo. Ciao e grazie Micaela. Ciao Franco. Visioni private, visioni domestiche potremmo dire, private sembra chissà che cosa dobbiamo vedere, invece no. Visioni domestiche, i film da vedere, rivedere, recuperare in casa, come sempre partendo dai consigli televisivi. Novità della Rosa Purpurea, stagione 2010-2011, signore e signori, il fatto che vi diamo due proposte dagli amici della redazione di Film TV, perché insomma i palinsesti sono belli ampi e pieni di possibilità durante la settimana, era un peccato contenere tutto in una proposta sola. Allora andiamo a sentire che cosa ha pescato per noi dal palinsesto della prossima settimana televisivo in chiaro e gratuito la nostra, anzi, la collega di Film TV, Sara Sagrati. Buongiorno Franco, ben ritrovati a tutti con le segnalazioni di Film TV. Questa volta parliamo di un film italiano, domenica 19 settembre su canale 5, 23 e 30, Mio fratello è figlio unico. Un film importante dove Daniele Lucchetti segue la vita di Elio Germano e Riccardo Scamarcio, fratelli divisi dall'ideologia politica. Un buon esempio di cinema medio-alto che sa identificare la storia degli anni 70 del nostro paese, bella tragica insomma, con le vite di questi due ragazzi e soprattutto in un'interpretazione molto, molto interessante, molto bella e sentita. Oh, è vero che sei comunista? Che ne freghiamo della galera, camicia nera, trionferà. Salti più in testa di fare sciopero a scuola, eh? Vabbè, ma allora scusa, gli scioperi che fa Marico vanno bene e quelli che faccio io no. Sì, di suoi sì, poi no. Brava. E questo per quanto riguarda Mio fratello e figlio unico, che vi ricordo è in onda domenica 19 alle 23.30 su canale 5. Ma cambiamo anche clima completamente con un'altra proposta, un film che aveva un motto: lasciate che la gioia vi inondi. E penso, Sara, che sia andata davvero così. Di tutt'altra pasta, di tutt'altra specie, sempre un'altra prima visione di Canale 5 alle 21.10 lunedì 20 settembre c'è Mamma Mia, con un bel punto esclamativo, un'esplosione kitsch, camp, qualunque altro aggettivo che finisca con una consonante di musica e di colore. Uno dei musical della stagione, tra poco sarà anche a Milano con la versione on stage, una Meryl Streep imperdibile, canti, balli, tuffi nel mare della Grecia con la musica degli Abba, che è sempre irresistibile. Tipico, aspetti per 20 anni un padre, poi ne arrivano 3 insieme. Ne prenderai uno? Che vuoi dire? se sei andata con centinaia di uomini. Non sono andata con centinaia di uomini. E allora, Mamma Mia, lunedì 20 alle 21.10 su Canale 5, è la prima TV in chiaro, per cui per molti, molti milioni di persone sarà il primo impatto con un film davvero straordinario per ritmo e appunto gioia, quella che riesce a trasmettere. Grazie agli amici di Film TV. Siamo ancora al Rocky Horror Picture Show, siamo alla terza finestra sul Blu-ray Game di questa settimana. Ascoltiamo un altro brano dal celebre musical. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Un altro dei brani celebri di Rocky Horror Picture Show, Time Waste, per riproporvi le domande, i segreti del film che compie 35 anni, cosa c'è scritto sul tatuaggio che il dottor Frankenfurter porta nella parte superiore del suo braccio destro e quale celebre rockstar voleva, ma non è riuscita, ad interpretare il dottor Frankenfurter nel film. Rosa Purpura @ radio24.it. Vi ricordo anche che nel corso della prossima settimana ci sarà un evento a Milano proprio al Cinema Mexico, The Horror House, come viene definita, venerdì due spettacoli alle 20.30, alle 22.30, ingresso gratuito ma su prenotazione, informatevi su internet per poter partecipare a questa edizione speciale di questo Rocky Horror Picture Show, con il pubblico che diventa praticamente protagonista, viene fornito anche di strumentazioni adatte a partecipare attivamente a questa che è una grande festa in occasione appunto dell'uscita del Blu-ray che noi questa settimana, grazie alla 20th Century Fox, abbiamo messo a disposizione di due nostri fortunati ascoltatori. Allora, a questo punto noi andiamo avanti a parlare di DVD, perché è arrivato il momento di risolvere il game della scorsa settimana. Avevamo fatto ascoltare questa traccia. Allora, abbiamo convocato l'Assemblea di Libertà per l'Iraq domani, qui all'interno della Green Zone. Noi contiamo che vengano i rappresentanti di tutte e tre le principali etnie del paese. Erano i 10 secondi finali di questa, delle nostre tre tracce, gli ultimi che abbiamo fatto ascoltare. C'era dentro anche in nuce il titolo. Il nostro Claudio Poffi nella selezione era stato molto molto buono. Si trattava appunto di Green Zone in Blu-ray. Hanno indovinato due ascoltatori dal Veneto: Mirko Bordignon di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, e Andrea Cipriani di Padova, che riceveranno il Blu-ray di questo film. Claudio, eccoti qui con noi. Ciao, allora raccontaci un po' questo Blu-ray di un film molto particolare, fra i più interessanti delle ultime annate da riscoprire. Sì, ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Da Medusa, una realizzazione sicuramente di tutto rispetto, pubblicazione sia in DVD che Blu-ray, disponibile tra l'altro il DVD in un'edizione per collezionisti con custodia in metallo. Il Blu-ray è sicuramente la scelta migliore per la qualità tecnica, per ritrovare diciamo tutta la grafica di un film teso, adrenalinico. Va prestata molta attenzione perché c'è molta grana nel film, ma non è dovuta a deficienze del prodotto, ma legata proprio alla cifra stilistica dell'opera. Segnalo per il Blu-ray questa doppia traccia DTS ad alta risoluzione, e per gli extra molto molto interessante il commento del regista Paul Greengrass assieme a Matt Damon, scene tagliate, e c'è addirittura un esclusivo sistema di calibrazione audio-video per ottimizzare la visione e l'ascolto del Blu-ray. Andiamo alla prossima segnalazione, invece un film d'animazione artigianale, lo definirei, davvero straordinario e di grandissima sottile ironia. Stiamo parlando di Fantastic Mr. Fox, ascoltiamo. Piano generale, fase 1, lato A. Cominceremo con il pollaio numero 1 di Buggies. Come difesa c'è qualche vecchio beagle da caccia e un muro basso. Ah, a proposito dei beagle, non fissare mai un beagle dritto negli occhi. E perché se... no? I beagle non sono così feroci. Già, ma uno di quei beagle è affetto da rabbia cronica, per cui prende dei farmaci, e se ti morde dovrei farti fare delle iniezioni allo stomaco per 6 mesi. E secondo, senti, non intendo darti giustificazioni. Sta attento e smettila di interrompermi. La volpe, Mr. Fox, e il suo amico Possum Kylie decidono di derubare i tre agricoltori più invidiosi e ricchi della zona. Nonostante la notevole pianificazione, i due vengono scoperti e così gli uomini faranno l'impossibile pur di trovare la tana e far cessare i furti. Mr. Fox sarà così costretto a impegnarsi per realizzare un nuovo piano che impedisca agli agricoltori di non nuocere, ma soprattutto di salvare famiglie e amici. Da uno dei registi più interessanti del panorama americano come Wes Anderson, il suo primo coinvolgente lungometraggio d'animazione, animazione che affronta nuovamente il tema della famiglia. Da Fox Home Entertainment il DVD ha una qualità audio-video molto buona. Come extra segnala un documentario sulla creazione del film, alcuni minuti in compagnia degli attori che hanno dato vita alle voci dei personaggi, qualcuno avrà riconosciuto sicuramente quella del doppiatore di George Clooney, coinvolto nell'opera, disponibile tra l'altro anche il Blu-ray alta definizione. E allora grazie a Claudio Pofi, appuntamento fra 7 giorni per parlare di DVD e Blu-ray. A presto, un saluto. Si chiude qui la puntata della Rosa Purpurea, grazie per averci seguito. Appuntamento fra 7 giorni, ci troveremo qua a parlare di uscite molto importanti dall'Italia. La commedia, forse è una delle più azzeccate dell'ultima mostra di Venezia, firmata Carlo Mazzacurati con Silvio Orlando, La Passione, e soprattutto il film che ha sbancato recentemente i botteghini americani, Inception, con Leonardo DiCaprio. Alla prossima settimana.